nel sole accecante di un ponte a Venezia, un giorno di maggio, o lungo un sentiero di neve, su un monte di ghiaccio, davanti ad un quadro di Vincent van Gogh, o un pittore di strada, nel corso del breve intervallo di un film di Almodovar. Alla presentazione di un'opera prima, a un premio di prosa, riflessa sulla vetrina, accanto a una rosa, in mezzo a un corteo di colori, o a guardarlo passare alla mostra al mercato dei fiori, equa e solidale. Riunione scolastica, professoressa, precisa e puntuale, o nel corridoio asfittico di un ospedale, a un convegno di archeologia industriale, una sala d'attesa o davanti a una chiesa per un funerale, a una cena di reduci che non ci sarò, nel punto d'incontro tra la luna e i falò, in un parco di Oslo o a Roma, andando un po' in giro, o sull'autostrada tra Islanda ed Irlanda, o a New York, guardando le torri a Ground Zero. E invece ti incontro tra scaffali di offerte speciali di un ipermercato affollato, ti vedo più vecchia e più bella di me, e penso se forse sia il caso di offrirci un caffè. E i bambini come scoiattoli scappano via, e li abbiamo già persi, e anche al reparto giocattoli i nostri ricordi sono molto diversi. Tanti anni dopo, dopo l'estate dell'eclissi totale, ci siamo detti già tutto e possiamo anche andare. Ma un po' mi consola, un po' mi consola osservare che dentro il carrello abbiamo lo stesso giornale, lo stesso giornale.